Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentire svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi, a sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare nell'amore.